Spazio Cassero, che cos'è? Spazio Cassero, spazio LGBTQ Cassero, è il nostro segretariato sociale, nato lo scorso anno grazie a un finanziamento dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Ministero delle Pari Opportunità, ed è un servizio che mette insieme appunto un assistente sociale, uno sportello di aiuto psicologico, uno sportello di supporto giuridico e il telefono amico del Cassero, e mette in rete altre realtà della città. In particolare Piazza Grande, che è il nostro partner principale, ma anche altri servizi territoriali come ASP, grave emarginazione adulta, il Comune di Bologna, quindi, la Regione Emilia-Romagna tramite l'assessorato alle pari opportunità e altri enti che ci supportano invece nel reperimento del lavoro per le persone che si rivolgono al nostro servizio, tra cui appunto ENFAP e Legacoop. Si può rivolgere chiunque, è uno sportello aperto, ad accesso diretto, è rivolto alla popolazione LGBTQIA+ della città di Bologna. E non solo, ma il nostro target può essere multidimensionale e a noi si rivolgono appunto anche persone con background migratorio, perché non è detto che le persone LGBTQIA+ non possono essere migranti, persone senza dimora, adolescenti. Non abbiamo un target generazionale prespecifico, a noi si rivolgono le persone che hanno subito discriminazioni legate all'orientamento sessuale e alla discriminazione di genere, perché a volte questo tipo di discriminazioni non colpiscono soltanto la comunità LGBTQIA+. Vostro bilancio del primo anno. È un bilancio positivo, se si può parlare appunto di bilancio positivo quando si parla di discriminazioni. Il nostro servizio ha raccolto oltre 100 persone e ha fornito più di 100 ore anche di formazione ai servizi territoriali e ha rilevato appunto discriminazioni in ambito lavorativo, anche nello spazio pubblico, in ambito scolastico e anche nell'ambito domestico. Per noi questa è soltanto la punta dell'iceberg, perché siamo consapevoli che le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere sono anche molto difficili da far emergere perché non ci sono tutele a livello legislativo in questo momento in Italia. Abbiamo parlato anche del fenomeno di underreporting, perché la gente non denuncia? Non denuncia perché in realtà da un lato c'è una difficoltà anche a sentirsi tutelata nel momento in cui ci si rivolge alle forze dell'ordine o al servizio pubblico, perché molto spesso la discriminazione avviene anche in ambito pubblico, pensiamo alle persone trans in ambito sanitario che sono costantemente vittime di deadnaming, quindi rivelazione della loro identità di genere. E sicuramente la mancanza di tutele da parte dello Stato, di formazione nell'ambito dei servizi, rende meno sicure le persone LGBTQIA+ a rivolgersi a chi dovrebbe tutelarli. E ovviamente anche l'emersione dei dati è più semplice nel momento in cui si offrono dei servizi che provengono dalla comunità, quindi community based, e che sono pensati appunto dalla comunità stessa. E quanto è importante la formazione e cosa state facendo voi sotto questo punto di vista? Allora, la formazione è importantissima, lo diciamo da quando la comunità LGBTQIA+ esiste, ma tutte le popolazioni marginalizzate, i target marginalizzati, appunto lo rivendicano. La formazione vuol dire fornire degli strumenti a chi opera nell'ambito pubblico o privato per accogliere le persone discriminate e marginalizzate, tra cui appunto le persone LGBTQIA+. Noi appunto abbiamo erogato formazione appunto all'Agenzia dei Servizi alla Persona, ASP di Bologna, ma non solo, la eroghiamo anche al personale educante, alla comunità educante del Comune di Bologna e anche tramite altri servizi. Quindi per noi è fondamentale puntare sulla formazione perché è solo tramite la formazione che si riescono appunto a formare le persone che poi si trovano a interagire con le persone discriminate.